Visto che vi confrontate con lo champagne, i vostri 56 milioni di euro, 57 per la precisione, di fatturato possono essere un po' pochi. Avete intenzione di fare acquisizioni? Allora, parto dall'inizio. Innanzitutto è vero, quest'anno noi festeggiamo 110 anni di storia, quindi il 110° anniversario, e siamo arrivati ormai alla terza generazione. Per me, fra l'altro, è il primo Vinitaly come presidente delle cantine Ferrari ed è quindi anche un Vinitaly molto speciale. La nostra dimensione è quella di una grande azienda, se uno guarda il vino italiano, ma in termini generali siamo ancora una piccola azienda. Crediamo che tutto sommato quindi ci sia, per avere successo in questa sfida che è importante, quella di affermare un marchio come simbolo dell'arte di vita italiana nel mondo, ecco, si debba anche pensare a crescere, perché la dimensione ovviamente permette, può permettere anche di strutturarsi meglio in termini di team, in termini di persone, per attrarre dei talenti. E oggi, per vincere queste sfide, dobbiamo, ripeto, certo, soprattutto attrarre talenti. Le acquisizioni noi non le escludiamo. 57 milioni sono il numero di Ferrari, ma tutto sommato noi siamo già, ma anche quando un gruppo. Dice acquisizione, pensa a dei marchi o a dei terreni? Allora, i terreni noi continuiamo ad acquisire, sia a fare nuovi impianti in Trentino che ad acquisire nuovi conferenti, perché tutto parte, un grande vino deve sempre partire dall'uva, e quindi noi vogliamo crescere anche con Ferrari, e ogni anno, come abbiamo sempre fatto nei nostri 110 anni di storia, andiamo a cercare nuova uva di grande qualità, perché non siamo mai cresciuti facendo compromessi con la qualità. Però a livello di gruppo noi abbiamo anche sempre, stiamo attenti anche alle possibilità di acquisizione. In fondo Ferrari è un'azienda. Che profilo potrebbe essere? Altre bolle, oppure come hanno fatto altri suoi concorrenti, chi produce il rosso in Toscana? Cioè, dov'è che andrebbe a comprare? Se ha già in mente un nome, ce lo può dire. No, ma anzitutto noi siamo già un gruppo. Noi diciamo quel gruppo Lunelli intorno a Ferrari, certo, negli ultimi vent'anni abbiamo costruito un gruppo che ad esempio ha anche un'acqua minerale, la Surgiva, abbiamo una tenuta in Toscana che produce rossi e che è la tenuta Podernovo, abbiamo una straordinaria azienda in Umbria che fra l'altro vedrà fra poco inaugurata una cantina meravigliosa che è costruita su un progetto di Arnaldo Pomodoro, ed è la tenuta Castelbuono, che sarà uno scrigno per questo vino straordinario che è il Sagrantino. Abbiamo poi una grappa. Dove c'è quella specie di, cos'è che voleva rappresentare Pomodoro, per inciso? Allora, si chiama il Carapace, che è il guscio di una tartaruga. E l'Umbria è un territorio straordinariamente affascinante. No, ma lei mi risponde alla domanda, allora, perché voglio sapere che cosa vuole comprare il gruppo Lunelli. Sicuramente il target di una nostra eventuale acquisizione dovrebbe essere comunque un prodotto di grande qualità, dotato di tradizione, con un bel marchio, qualcosa che sia compatibile con la filosofia del nostro gruppo, che è sempre stata, fra virgolette, quella dell'eccellenza del bere italiano. Ma negli ultimi anni noi abbiamo adocchiato anche alcune aziende, solo che non è facile effettivamente trovare aziende che corrispondano al nostro identikit, che abbiano le qualità che noi ricerchiamo. Intanto stiamo continuando a investire nelle nostre aziende, nei nostri marchi, che hanno ancora grande spazio di crescita. Ma questo è un programma che si occupa spesso di acquisizioni future, ma lei a che operazione pensa? 10, 15, 5 milioni? Allora, io ripeto, secondo me deve essere più che la dimensione, è la qualità quella che conta, perché nel nostro gruppo abbiamo anche delle realtà molto più piccole di Ferrari, ma che completano la nostra gamma. La Segnana, ad esempio, nella grappa è un'eccellenza, è una grappa trentina che ancora fa il metodo discontinuo di Maria di Vapore. È però, piccola, insomma, qualcuno, ma è significativa. Qualcuno l'avete visto, interessante. Assolutamente. In Italia però il mercato dell'M&A nel vino è un mercato estremamente difficile. Ma perché i prezzi sono troppo alti ancora? Ma perché tendenzialmente, per fortuna, il vino sta andando bene, quindi giustamente in un settore che va bene è difficile magari che i produttori italiani sono anche molto legati alle prossime aziende, e questo è un elemento molto positivo, e quindi magari non si vogliono distaccare da questo. Noi magari siamo troppo ambiziosi o ci piacciono le cose troppo belle, e le cose belle magari non sono in vendita, però chissà, io spero che ci siano anche novità, che nei prossimi anni possano crescere le aziende già presenti nel gruppo Lunelli, e perché no, si possono aggiungere altre realtà, come, ripeto, la seconda generazione la nostra famiglia, oltre a Ferrari, ha portato nel gruppo altri marchi. Non mi vuol dire che tipo di azienda, se fa bolle o vino fermo, no? Ma perché? Olio. Io ripeto, l'eccellenza del bere italiano, e quindi qualsiasi azienda che abbia queste identikit.